Good morning, Radio Kabul! Salut! Nieruchimi Respublik Svobodny Splatila navieki Velika Yaros Milan, Bolshevico! Stanni vole naroda Milan, non ho capito se ti chiami Alino o Alenin. Sovietski Sajus Comunista bolscevico Milan Setung Setung Setung Radio Kabul Družbin naroda Mladjož diabla Stalin Lenin Milan Vai con l'armata rossa Piegati al sistema che non siete altro Uno, nessuno, 100 Milan di Alessandro Milan con Leonardo Manera. Eccoci cari ascoltatori per ripartire una settimana insieme, sono le 9 e 8 minuti e ci siamo in diretta fino alle 11 con voi. Oggi è anche il giorno del grande ritorno, credo, di Leonardo Vestagliona Lentopede Manera, che dovrebbe far capolino qui nella redazione di Radio 24. Oh, giusto? Ma quando lavori? Sì. In genere si presenta il 27 soprattutto del mese per riscattare lo stipendio, però la scorsa settimana, visto che non c'era per la febbre, era collegato da casa in Vestagliona, oggi forse verrà a riscuotere per l'appunto. 13.000 euro netti al mese. Va così, va così. Il destro di Çalhanoğlu, dimensione a rete, apparenza per Milan. Vabbè ragazzi, sì è vero, abbiamo fatto questo 1-1 casalingo, ma grazie a questo 1-1 casalingo e grazie alla sconfitta del Legnano siamo primi in classifica noi della Pro Sesto con anche un guadagno di punti, veleggiamo alla grande, veleggiamo verso la Serie C, veleggiamo così, a vele spiegate verso la Serie C, nonostante l'1-1 casalingo abbiamo allungato in testa alla classifica, noi della Pro Sesto, voi non lo so. Lorenzo Nespoli, Miriam Lucchetti ed Elisabetta Fusconi sono in redazione insieme all'Alpino. Fa vedere se hai un po' le occhiaie, non sei rimasto sveglio questa notte a vedere il Super Bowl. Di solito è un momento dell'anno in cui ti assenti per 5 giorni per andare a vedere il Super Bowl. Vabbè, sei qui invece. Dai, 9-10 minuti, ci siamo, vai! Sentiamo cosa è successo oggi, dai! Andiamo Milan, andiamo, dai! Enthusiasm about the future. Allora 800 24 00 24, per intervenire in diretta, oppure 349 238 6666. Guarda qui che bella notizia, tra l'altro ne parleremo in apertura anche noi del coronavirus. Che bella notizia giusto dalle agenzie, la Cina contro gli Stati Uniti sul coronavirus hanno creato solo il panico. La Cina che accusa gli Stati Uniti, hanno diffuso il panico con reazioni fuori misura sull'epidemia di coronavirus di Wuhan. Noi tra poco ci collegheremo con Wuhan, perché gli italiani, gran parte degli italiani, rientrano. Sono attesi questa mattina a Pratica di Mare con il volo diretto. Uno non è partito perché aveva la febbre, non l'hanno fatto partire, di quelli che volevano partire. Ci sono alcuni italiani invece che hanno deciso, era una scelta personale, di rimanere a Wuhan. Ma parleremo anche della vicenda Chico Forti, forse anche voi avete seguito, di questo italiano condannato in Florida in carcere, che da anni, per la verità, porta avanti una battaglia a dire aiutatemi, io sono innocente. Parleremo di storia. A proposito di storia, l'ultima è questa: io vorrei capire perché ogni tanto degli insegnanti fanno di tutto per cercare di mettersi in mostra con delle frasi del genere, tipo l'insegnante di Firenze che ha detto contro Liliana Segre: a me quella persona non piace perché cerca notorietà, non la sopporto. E anche voi ragazzi non fatevi fregare da personaggi come lei che cercano solo pubblicità. Ecco, parleremo, a partire da questo da questo dato impressionante dell'Eurispes, secondo il quale c'è una percentuale altissima di italiani che non crede alla Shoah, non crede sia esistita la Shoah. Io mi chiedo, ma perché sei un insegnante, ti devi distinguere, ti vuoi distinguere con una frase del genere? Poi ovviamente aggiunto agli allievi, non andate adesso dai vostri genitori a dire che sono antisemita, che ho avuto un nonno anche lui deportato. Ovviamente i ragazzi sono accorsi dai genitori. E io dico, giustamente, ora la preside dice quell'insegnante non si presenti questa mattina a scuola. E io dico giustamente, perché voglio dire, non si capisce perché si debba voler distinguere taluno o taluna per delle frasi del genere. Dico anche una questione velocissima di politica, poi ci occupiamo di cose più importanti, appunto il coronavirus, la questione della foto delle sardine con Benetton. Allora, sapete che io qui ho anche espresso qualche perplessità sul movimento delle sardine, sul fatto che mi sembrava un movimento bello, molto colorato, di persone che scendono in piazza. Sui contenuti ho sempre avuto delle perplessità, nel senso che a domanda precisa su cosa fare mi sembravano un po' i responsabili delle sardine un po' così in difficoltà, come un esame in cui non hai studiato tantissimo e cerchi di fare un po' delle supercazzole. Allora, però io veramente qui devo dire, secondo me l'errore che hanno fatto è quello ora di chiedere scusa per la foto con Benetton. Ma ragazzi, ma io non ho capito, adesso uno non può fare... Sono andati, da Oliviero Toscani, dal suo centro fabbrica, a parlare di comunicazione. Poi, se ho capito bene, Luciano Benetton, insomma, che lì il padrone di casa è arrivato lì per salutarli, hanno fatto una foto, è successo... Ma che male c'è? Cioè, non ho capito, c'ha la peste, c'ha il coronavirus Luciano Benetton, uno non può fare una foto con Benetton. I poteri forti, ovviamente la destra, Salvini su questo, cioè, stanno con Soros, stanno coi poteri forti. Ma poi cosa sono sti poteri forti? Qualcuno un giorno me li vorrà spiegare cosa sono i poteri forti. Cioè, allora si è certificato, loro hanno chiesto scusa, che non si può fare una foto con Luciano Benetton. Ma ragazzi, io ho passato il weekend, sono stato accolto in maniera straordinaria da Oscar Farinetti, sua sorella Paola, la Fondazione Mirafiore. Ho passato un bel weekend, ho mangiato benissimo, ho bevuto benissimo, sicuramente ci saranno delle foto, sono orgoglioso. Cioè, che non so, magari qualcuno mi dirà, fatto la foto con Oscar Farinetti, potere forte, ma potere di che? C'è un imprenditore, anche Luciano Benetton è un imprenditore, uno dei più importanti imprenditori in Italia. E allora, voglio dire, non è che sono andati lì a fare una dichiarazione politica su autostrade e le concessioni, hanno fatto una foto con Benetton, che male c'è? Dai, su. Va bene, ma il coronavirus... Allora, io saluto con grande piacere Sara Platto, docente universitaria che è rimasta a Wuhan e quindi siamo in collegamento con Wuhan. Buongiorno Platto, eccoci. Salve, buongiorno a voi. Ci vuole spiegare questa scelta? È una scelta personale? Come mai ha deciso di rimanere? È scelta lavorativa. Lavorativa, in questo certo. Periodo. Sì, è una scelta lavorativa perché in questo periodo, proprio col coronavirus, il mio lavoro è aumentato esponenzialmente con la fondazione per cui sono consulente scientifica, e siccome appunto il coronavirus si è sviluppato appunto dovuto al passaggio del virus dall'animale all'uomo per l'utilizzo di animali selvatici, quindi la mia fondazione sta adesso finalmente spingendo in maniera fortissima il governo a emanare una legge che divieta in modo assoluto e definitivo l'utilizzo di questi animali. Di animali. Però su questo stiamo lavorando intensamente. Su questo non c'è una certezza scientifica al 100%, ancora è una teoria questa che è stata elaborata sul passaggio dagli animali selvatici. No, non è, nel senso, non è una teoria, è probabile che sia proprio così, assolutamente. Nel senso che ci sono un sacco di patologie che si chiamano appunto zoonosi, che sono patologie che sono malattie che proprio sono dovute al passaggio di virus di microrganismi dall'animale all'uomo. Sì, ricordiamo che lei fa parte, lei è capo anche di una, fa parte di una fondazione che si batte proprio per portare avanti questa idea, sì, di dire basta, esatto, mangiare China, questi la China questi... Biodiversity Conservation and Green Development Foundation. Quindi come dire, deve rimanere lì, deve rimanere lì per portare avanti questa battaglia. Sì, rimango qui, sì, il mio lavoro è aumentato, poi la mia fondazione tra l'altro in questo periodo non si occupa solo di questo, ma ci tengo appunto a sottolineare che nel momento in cui è stato, diciamo, dichiarato il lockdown a Wuhan, la mia fondazione ha cominciato a obbligare alcune fabbriche intorno a Pechino ad aprire durante il Capodanno cinese e a produrre maschere e materiale medico che è stato poi distribuito a Wuhan e in altre città dell'Hubei. Fino adesso hanno distribuito più di 300.000 tra mascherine, occhialetti e tutte asthma suit nella Hubei province. Sì. Per cui ecco, infatti c'è un team numerosissimo di volontari qui a Wuhan della nostra fondazione che va in giro fondamentalmente ad aiutare chi ha bisogno, quindi a portare il pranzo, la cena ai medici negli ospedali che non possono lasciare l'ospedale, a trasportare materiale medico, quindi insomma il lavoro è tantissimo al di là della componente animale. Ovviamente adesso la vita un po' riprende, nel senso che ci sono state le vacanze, ci ha spiegato che c'è stato un periodo di chiusura legato al Capodanno cinese, adesso però si riprende un po' a dover tornare a lavorare. Immagino ci sia un po' di preoccupazione o di precauzione, ecco. Adesso, sì, adesso fino al 14, allora noi stiamo aspettando proprio il 14 di febbraio di vedere cosa succede, perché il governo aveva dichiarato che tutte le attività fossero chiuse a Wuhan, tranne ovviamente supermercati e negozi alimentari, e fino al 13, per cui noi stiamo aspettando adesso il 14 di vedere cosa succede. Fare, ovviamente cosa le scuole rimarranno chiuse oltre, almeno fino alla fine del mese di febbraio, quindi le attività che verranno aperte saranno quelle, cioè, relative al commercio, banche, eccetera eccetera, e vediamo cosa succede. Quanti siete, da quanto si è capito? Perché molti stanno rientrando, atterreranno tra poco in Italia, molti italiani, una sessantina credo. Quanti siete rimasti adesso lì? Sì. Siamo proprio in quattro gatti, nel senso che quelli che ci siamo contati noi del gruppo siamo in quattro, però dovrebbero essercene altri che non facevano parte del gruppo, quindi non lo so, penso che siamo sì e no, una decina forse. Una decina, beh sì. Però quelli che conosco io sono in quattro, proprio quattro gatti. Quattro gatti, possiamo dirlo, esatto, così, proprio quattro gatti. Siamo i quattro gatti di Wuhan. Viste? Siamo la task force di Wuhan. Insomma, Sara Platto, facciamo così, sentiamoci e teniamoci in contatto. Insomma, questa data del 14 febbraio è anche importante per capire come riprenderà la vita quotidiana. Esatto, sì, assolutamente. C'è da dire che insomma è la città. Non vedo l'ora, le dico. Non vedo l'ora. La prima cosa che farò sarà ordinare McDonald's, perché dopo due settimane di cibo sano sento la mancanza del cibo, diciamo così, il junk food, no? Come sì, si dice in inglese. Ma l'hanno aperto il McDonald's. Com'è? L'hanno aperto. Sa che no, qua c'è un po' la psicose qui in Italia, no? Noi adesso tra poco arriverà anche Leonardo Manera, vogliamo lanciare la campagna un po' la abbiamo già fatta, abbraccia un cinese, no? Per fare vedere che dobbiamo cercare. Perfetto. Di... Però com'è la situazione dal punto di vista dei ristoranti? La gente li frequenta? Fondamentalmente tutto chiuso. Io so che oggi ci ha mandato una fotografia che c'era una specie di, chiamiamolo, McDonald's cinese che era aperto, infatti ha fatto dire le patatine fritte e tutti patatine fritte però sì, qualcosa è aperto, nel senso soprattutto nelle zone degli ospedali, intorno agli ospedali questi ristoranti sono aperti per ovvi motivi, per fornire pranzi e cene, colazioni ai medici e ai pazienti, per cui devono essere aperti, insomma. Certo. Però qui nelle mie zone no, non c'è. L'unico McDonald's, che era, nel senso, l'unico, ce ne sono due o tre, e non sono aperti, non sono per aperti. Cui sto aspettando in grazia i treni. Cioè, è anche questa la questione del coronavirus: attendere con ansia la riapertura di un McDonald's. Va bene, noi ringraziamo Sara Platto da Wuhan, collegata da Wuhan. Ormai sono rimasti quattro gatti, appunto, italiani, letteralmente, come ci ha detto. La sua è una scelta anche, come dire, di lavoro, visto il lavoro che fa. E la fondazione, ricordiamo che insomma lavora anche per il benessere degli animali, è veterinaria e quindi si batte in questo senso. Adesso alle 9:22 minuti vogliamo parlare di un argomento che tra l'altro ieri mi ha anche un po' colpito. Ha fatto il suo ingresso in uno stadio di calcio, nel tempio del calcio, soprattutto quando gioca il mio Milan, perché è comparso uno striscione nella curva dei tifosi che riguarda questa storia che introduciamo con questo audio. L'uomo che vedete è un nostro connazionale, si chiama Enrico Forti. In questa foto aveva da poco compiuto 38 anni, oggi ne ha 60 e da 20 anni si trova rinchiuso in una prigione di massima sicurezza negli Stati Uniti d'America, condannato al carcere a vita per l'omicidio di un uomo a Miami. Da allora sono passati esattamente 7.168 giorni ed Enrico Forti, detto Kiko, non ha mai smesso di gridare la sua innocenza. Sono ormai diversi mesi che vi stiamo raccontando questa incredibile storia. Io saluto Gaston Zama, le Iene, eccoci qua. Buongiorno a tutti. Allora, le Iene, e questa è tua la voce, insomma, sei entrato tra l'altro in questo carcere a incontrare Kiko Forti. Ieri è comparso questo striscione. Quanto tempo deve ancora passare giustizia e libertà per Kiko Forti, che ricordiamo è condannato per omicidio? Ti aspettavi questa solidarietà anche dal mondo del calcio, voglio dire, da una tifoseria? Ma è stata una sorpresa, però visto quello che sta succedendo dal momento in cui siamo andati in onda con questa serie di servizi e con lo speciale di giovedì scorso, insomma, non dico che ce l'aspettavamo, però è stata una bella sorpresa. Una bella sorpresa. Ci puoi spiegare perché, in estrema sintesi, ovviamente, appunto, hai fatto tanti servizi e uno speciale, perché si può dire o si può sostenere, forse siamo davanti a un clamoroso errore giudiziario nei confronti di Kiko Forti? Guarda, noi, per come abbiamo impostato il lavoro, non ci siamo mai chiesti, anche perché sono passati 20 anni e quindi è dura riuscire a tirare fuori nuovi elementi dopo 20 anni. Noi ci siamo chiesti se Kiko Forti avesse avuto un giusto processo, quindi se alla giuria, che in America in toto decide se qualcuno è colpevole o innocente, fossero stati dati tutti gli elementi per giudicare il nostro connazionale. Quindi è stato questo il punto di partenza. E scandagliando tutto il caso, leggendo tutti gli atti processuali, tutte le carte e documenti emersi sia prima ma soprattutto dopo quel processo, insomma, dei dubbi, il quadro dei forti dubbi è abbastanza inquietante. Ricordiamo che in America uno dei principi per accusare, il principio per accusare qualcuno è accusarlo al di là di ogni ragionevole dubbio, sì. Ecco, e in questo caso i dubbi si ci contano sono con la calcolatrice. Guarda, dico una cosa personale, perché mi sono occupato 20 anni fa, forse qualcuno si ricorda qui a Radio 24, del caso di Derek Rocco Barnabei, che fu condannato a morte e giustiziato in Virginia, era il 2000, ed è esattamente il punto della campagna che fece Radio 24 allora, e che insieme a Giancarlo Santalmassi soprattutto mi vide protagonista, cioè a dire è innocente o no, non importa, andiamo a vedere le carte processuali e vediamo se è stato fatto un giusto processo ed è stato condannato al di là di ogni ragionevole dubbio. Questo è il punto fondamentale, perché se no non ci si può dire garantisti a corrente alternata. Se siamo garantisti dobbiamo considerare che è meglio un colpevole o presunto colpevole fuori che un innocente presunto in carcere. Questo è il principio. Tra l'altro, Gaston, io voglio salutare Emanuela Corda del Movimento 5 Stelle, Commissione Difesa e firmataria di una mozione parlamentare su Kiko Forti. Buongiorno, onorevole Corda. Buongiorno a voi. Ecco, mozione parlamentare che che forza può avere, cioè cosa può fare davvero l'istituzione Stato italiano per Chico Forti in questo momento? Ma guardi, in realtà questa mozione arriva, diciamo, nella scorsa legislatura, perché diciamo che noi ci siamo occupati di questo caso già anni addietro, quindi adesso poi è balzato, diciamo, di nuovo alla cronaca anche grazie appunto ai servizi delle Iene. C'era stato anche un servizio negli Stati Uniti, perché diciamo che è recente anche il fatto che sia balzato l'opinione pubblica anche negli Stati Uniti. Prima non se ne parlava tantissimo. Devo dire che è un caso, come ricordava anche Gaston Zama, drammatico perché potremmo essere davanti ad un tragico errore giudiziario. Il problema è tutto lì. Infatti noi non abbiamo mai avuto la presunzione di dire che Chico fosse innocente o colpevole, ma semplicemente ci siamo posti il problema che a lui non siano stati dati i giusti strumenti per difendersi. Sì. Tra l'altro noi avevamo seguito la cosa con Ferniando Imposimato, che ahimè non c'è più da qualche anno, però lui che era appunto consulente di Chico Forti e la famiglia ci aveva diciamo mostrato tutte le carte di questo processo e tutte le evidenze drammaticamente distorte che erano venute fuori. Sì, resta da capire appunto che cosa. A me ha colpito, Gaston, ha colpito di recente, sentivo anche un tuo servizio, delle possibilità, e tu gli hai chiesto anche a Chico Forti, quando sei entrato in carcere, la possibilità addirittura di un clamoroso, sarebbe a quel punto, scambio tra Stati Uniti e Italia. Cioè, sapete che ci sono due americani accusati dell'omicidio di un carabiniere a Roma, la vicenda la ricordate, e tu hai prospettato questa idea che ci sarebbe quella di dire vabbè, facciamo il processo e poi magari se devono scontare la pena la scontino in America e voi però ci restituite Chico Forti. L'ho detta brutalmente, Gaston, ma insomma questa è diciamo un'ipotesi che non ha nulla di concreto per ora. Qualcuno mesi fa, quando appunto i due cittadini americani sono stati arrestati, ha scritto che questa era un'ulteriore carta che si può mettere sul tavolo per capire che cosa si possa fare a livello diplomatico per il caso del nostro connazionale. Ecco, il processo tra l'altro inizierà a fine febbraio, quindi vedremo se questa potrà essere un'ulteriore carta, insomma, proprio per i nostri diplomatici che sono al lavoro, perché Fraccaro nelle ultime ore continua a dichiarare il suo impegno e quello che ha detto, insomma, è molto importante, perché prima d'ora nessun governo precedente aveva dichiarato che il nostro paese avrebbe chiesto la grazia per Chico Forti, quindi ma è quella la strada migliore, cioè chiedere la grazia in America oppure chiedere al limite di dire fateci scontare il residuo di pena in Italia e poi quando arriva in Italia insomma si può eventualmente graziare, perché per gli americani perché dovrebbero, come dire, ammettere questo tipo di errore? Queste sono tutte domande corrette, però secondo me dovresti farle a chi si sta occupando proprio direttamente di questa, insomma, questa a livello diplomatico, certo. Emanuele Corda, visto che lei è del Movimento 5 Stelle, ne parlate appunto anche a livello ministeriale, sì, a livello col sottosegretario Fraccaro, cioè che cosa, appunto, ritorno alla domanda bomba, si può fare in concreto, sì, oltre allora, a una pressione diplomatica? Certo, allora la vicenda è molto complessa, come è evidente, perché se Chico Forti da 20 anni grida la sua innocenza ed è ancora in carcere, un motivo c'è. Diciamo che forse in passato c'è stata, non voglio dire scarsa attenzione, però non ci si è esposti forse a dover anche politicamente su questo caso. Devo dire che il nostro governo, ma anche il ministro degli esteri Di Maio, ha preso a cuore la cosa, come giustamente ricordava anche Gaston. Il governo appunto se ne sta occupando, le trattative sono trattative delicate, quindi anche per quello ovviamente c'è il silenzio adesso. Il governo ha già parlato, ha detto che prenderà ovviamente tutte le precauzioni del caso, che ha avviato una trattativa diplomatica concreta, quindi c'è stato proprio una dichiarazione di impegno preciso su questo fatto. L'obiettivo è riportare Chico Forti in Italia e ovviamente far tornare Chico Forti alla sua famiglia e ai suoi affetti da uomo libero possibilmente. Sì. È chiaro che bisogna purtroppo attendere i tempi che richiede. Voi lo sapete, sono già passati 20 anni, però sì, ripeto, questo governo se ne sta occupando, ecco, diciamo. Allora, attivamente noi magari ci risentiamo. Io vorrei sapere da Gaston come sta Chico, sì, visto che l'hai conosciuto, non l'abbiamo conosciuto attraverso le telecamere, attraverso le tue interviste, ma sono 20 anni di carcere. 20 anni di carcere rischiano di piegare inequivocabilmente chiunque. Nel caso di Chico? Nel caso di Chico, insomma, come si è visto dalla nostra lunga intervista in carcere, è pazzesco come lui riesca a mantenersi lucido e presente, perché appunto, come dicevi, sono più di 20 anni, e quando ci parli sembra di parlare come sto parlando adesso con te, Alessandro, cioè una persona al lavoro, in pausa dal lavoro, che ha una propria vita, che fa le sue cose. Sai quando noi finiamo le chiamate e diciamo ciao, no? Sì, perché sembra sempre che abbiamo qualcosa di importantissimo da fare, no? Uguale lui. Ecco, sì, ciao, un abbraccio, ci sentiamo presto, insomma. E poi la dignità con cui Chico parla e si pone, no, in quell'intervista e nei confronti di quello che gli sta succedendo, credo che sia anche la sua dignità e la sua lucidità che poi, sì, ha colpito chi che ha seguito i servizi e lo speciale di giovedì. Ricordiamo, lui è, insomma, accusato di aver ucciso Dale Pike, questo è il motivo per cui è stato condannato nel 2000 all'ergastolo. Tra l'altro, without parole, dicono in America, no? Cioè senza la possibilità di rilascio sulla parola, quell'ergastolo effettivo che in Italia non esiste di fatto, mentre lì vuol dire la tua prospettiva è morire in carcere, stare lì. Ci aggiorniamo. Io intanto vi ringrazio, Gaston Zama, delle Iene, che grazie continuano a ovviamente a seguire in prima persona questa vicenda, come ringrazio Emanuela Corda, Movimento 5 Stelle, firmataria della mozione parlamentare su Chico Forti, fa parte anche della Commissione Difesa, e vediamo se ci saranno degli sviluppi. Ripeto, la cosa importante è il punto, l'approccio che mi sembra giusto in questi casi non è rifare un processo e stabilire, a meno che non ci siano delle prove clamorose che si scoprono. Ci sono stati anche dei casi giudiziari, io ho appena finito di vedere ieri la serie Netflix When They See Us, guardatela, è meravigliosa, sulla storia di una violenza sessuale compiuta nel 1989, per la quale furono condannati e hanno scontato diversi anni di carcere 5 ragazzi di colore, e poi dopo 12-14 anni si è scoperto che un'altra persona ha confessato quel crimine e loro sono stati liberati. Quindi ci sono stati anche dei lavori giornalistici che hanno portato a scoprire delle nuove verità. Ma in ogni caso il punto è, dal punto di vista, l'approccio da non perdere è questo. C'è stato un giusto processo al di là di tutto? Questo è l'elemento su cui combattere. Intanto un attimo di pubblicità. Uno, nessuno, 100 Milan. I poteri forti, Milan, sono quelli che ti pagano in codesta radio. Cioè, Milan, non sai cosa sono i poteri forti? Sei proprio ingenuo. Sei proprio ingenuo. Milan, però non cosa ce ne frega del coronavirus? Però piuttosto, come hai fatto col car sharing e il blocco del traffico? Allora, come ho fatto? È banale. Mattia ha rinunciato alla partita di basket. Lo devo ancora ringraziare. Quindi è il figlio che ha subito. Oh, Leonardo Vestaglione Manera, dov'è la vestaglia? Sono qui, sono venuto in radio e ho sfidato la metropolitana piena di gente. Dicono di evitare i luoghi affollati, io invece ligio al dovere, ho frequentato anche questi vagoni della metro, un po' meno affollati del solito, devo dire. Sì. Sarà l'effetto coronavirus? Mascherine no, useranno il mio metodo. Cioè io metto la sciarpa tutta intorno a naso e viso, in modo, perché non vorrei diffondere il panico con la mascherina. Poi dicono tutti questi giorni che la mascherina serve più a non diffondere che a proteggersi. Io metto il mio sciarpone davanti al naso, tenuto lì con degli elastici, Così. Insomma, ti mascheri da pseudoterrorista. Proprio... Sì. Però devo dire che oggi la metropolitana era meno affollata del solito. Affollata. Chissà se sarà l'effetto, un po' di effetto. Non lo so, non lo so. Però il buon Leonardo Manera. Allora, intanto devo dire una cosa. Cari ascoltatori, dove ha festeggiato non so che cosa, ma dove era Salvini a fare una sorta di controchiusura della campagna elettorale dopo le elezioni in Emilia Romagna? Dove, lo riportavano ieri i giornali, dove era Salvini? Sai dove l'ha fatta? A Vignola. Ah. Ora, Leonardo, che ci facevi tu a Vignola questo weekend? Ero a fare un recital al Teatro Cantelli. Se devi dirci qualcosa, diccelo. No, ero al Teatro Cantelli di Vignola, sì, un piccolo teatro gestito da Andrea Santonastaso. Classiche scuse, ma poi in realtà il motivo per cui ti trovavi lì a Vignola, perché casualmente... mi avevano contattato, io sono... Chi? Andrea Santonastaso, che è il gestore di questo piccolo teatro, e io sono andato lì perché avevo questo impegno. Hai verificato prima con Matteo i tuoi spostamenti? Hai detto, ma Matteo sei a Vignola? Ma sì, io l'ho conosciuto Salvini, lo conosco, anni fa l'ho conosciuto. No, l'ho conosciuto anni fa, nel 2000, correva l'anno 2005-2006. Sì. Ecco. Guarda che se sei poi leghista non devi fare come le sardine che si vergognano della foto con Benettone, eh? Se sei leghista e no, sei andato a Vignola... Non l'ho più visto dal 2006 Salvini, potremmo invitarlo qui un giorno perché so che tu invece con lui hai delle frequentazioni quotidiane praticamente. Adesso stai cercando di ribaltare la frittata, come si suol dire, dici semplicemente dato di fatto... Perché eri a Vignola nello stesso weekend in cui Salvini era a Vignola. Ti ho fatto una domanda banale, puoi rispondere. Allora, poi. Sono andato a cena con lui, siamo stati insieme, ci siamo anche accoppiati sessualmente, va bene così, questo puoi sentirti dire. Abbiamo avuto un rapporto completo, ecco. A proposito, no, perché l'altro giorno Manera ha lanciato un'idea geniale, lanciava geniale, questa campagna. Geniale, anche sta cosa che è sempre geniale, non è nessuno è geniale, io di quelli che ho conosciuto in vita mia, di geni nessuno, forse uno. Allora, mettiamo un altro elemento, va bene? Manera ha lanciato questa idea, che io ho raccolto subito su Facebook, sui social, hai visto che il sindaco di Firenze ha risposto su Twitter, ha abbracciato questa campagna, la campagna abbraccia un cinese, sì. Voi dovete abbracciare un cinese, io ho detto poi se è una cinese, se è una bella cinese, è meglio, insomma, però... scelta. Ti sei fatto contagiare anche tu da Amadeus con il bellissima. Abbraccia un cinese, la fate una bella, cioè, ci mandate una bella foto con un cinese, lo fermate per strada, scusa ti devo abbracciare per Radio 24, fate una foto e ce la mandate mentre abbracciate un cinese. Tra l'altro secondo me questa campagna è bilaterale, ci ho pensato mentre venivo qui, sì? Nel senso che non è solo unilaterale per dire no, questa psicosi è eccessiva quindi posso abbracciare un cinese e non mi succede niente, ma è anche nell'altro senso, cioè visto che i cinesi hanno questo problema grosso a casa loro, è anche un elemento di solidarietà. Sì, poi no? Notoriamente i cinesi, cioè, non baciano, non si toccano, non si abbracciano, quindi li mettete anche in difficoltà, dai, sì, un po' d'affetto, un attimo di solidarietà, dire avete questo problema, tante persone magari là in Cina che soffrono, e quindi c'è anche oltre l'assenza di psicosi c'è anche una solidarietà verso chi soffre, bilaterale. Vedi la gente come risponde? Bene, vedi come è già solidale, abbracciali tu. Va bene, vedi? Abbraccia un cinese, dai, fate questa campagna insieme a noi. Io l'ho fatto con la mia amica Jessica, sono andato sabato, l'ho abbracciata, abbiamo postato la foto. Abbraccia un cinese, ecco, qui è partita la campagna. Poi, dopo un po', Leonardo ha mandato un messaggio nella chat comune della radio e tutti possono essere testimoni di questo, guardo Miriam Lucchetti, Elisabetta Fusconi, ha detto dovremmo chiederlo anche a Salvini di sposare. Sì. Perché ancora Salvini ti è venuto in ma mente? No, perché pensate che bello perché a Vignola perché, a no, pranzo con Salvini. Perché per Matteo Salvini sarebbe una bellissima immagine farsi vedere mentre abbraccia un cinese. Pensa che veramente per lui sarebbe un grande elemento di popolarità e che anche servirebbe in qualche modo secondo me a consolidare la sua immagine, quindi se Matteo Salvini o qualcuno del suo staff ci ascoltasse in questo momento sarebbe bello che lo proponesse al capitano, ecco, al capitano fare una foto mentre abbraccia un cinese anche lui. Il sindaco Nardella da Firenze l'ha fatto, va bene, dai, partiamo da Nardella. Comunque se ci devi dire qualcosa diccelo. Ringrazio invece candidarti. Il pubblico di Vignola, tra i quali c'erano anche alcuni ascoltatori di Uno Nessuno 100.000 che insomma sono venuti, si sono divertiti. sì. Bene, bene. Comunque dicono che Salvini ha già postato la cena cinese. Sì, sì, non è proprio. Vabbè, Io dico è bilaterale, è solidarietà anche verso i cinesi, ecco. Ed è annullamento della psicosi. Ci arriva un messaggio dalla Germania: mia moglie taiwanese non mi abbraccia da 3 giorni perché ho l'influenza. Amarezza. Vabbè, io ho fatto un'influenza come quella di quest'anno, non l'ho mai fatta. Bene. Tra l'altro mi hanno detto che qui si sentiva bene anche quando ero collegato da casa. E perciò io adesso sto pensando, ecco, di... Eccolo lì, infatti io ho detto, chi è che ha detto questa cosa che lo strozzo in redazione? Sto pensando di sfruttare questa tecnologia che mi permette di rimanere, anche di essere più produttivo. Perché magari posso sfruttare quell'oretta che di solito utilizzo per il viaggio, sì. E potrei rendere di più da casa. Mi preparo un caffè, sto lì, il mio caffè d'orzo misto a caffè normale, bevo una tazza, penso, cammino, vado in bagno, insomma. Telelavoro. Tutto ciò, ce ne siamo accorti di tutto ciò anche in onda. Sì, è il telelavoro che inquina meno, tra l'altro. Quindi sono anche ecologista, Greta mi sostiene in questo. Va bene. Dai, sentiamo Ivano dalla provincia di Varese, passiamo oltre. Ivano, eccoci. Buongiorno Alessandro. Buongiorno. Non so se passiamo oltre, l'argomento è ancora quello quasi. Ogni tanto sento da voi delle belle, vi seguo sempre, inchieste o comunque dei begli approfondimenti. Sì. Io ho una cosa che mi arrovella da qualche giorno e non riesco a capire. Continui i paragoni tra questo virus e la SARS nel, sì, 2003. Sì. Ma l'H1N1 del 2009, di cui ho veramente memoria, 480.000 sì, casi, 6.000 morti. Cos'era, la aviaria era? No, la suina. La suina. Partito dagli Stati Uniti, un numero di morti altissimo, 6.000 morti. Il primo caso in Italia, quindi 200 morti in Italia, il primo caso da un turista che veniva da San Diego. Però io non mi ricordo, al di là del terrore che si era diffuso, un farmaco antivirale che si diceva che funzionasse, sparito completamente dalle farmacie e decuplicato nei prezzi, nessuno ha sospeso i voli, nessuno, sì, se l'è presa con gli americani, e ci mancherebbe altro. Non voglio fare il complottista. Non è complottista. Allora, un po' di razzismo c'è. Dai, inutile negare. Si è scatenato un bel po' di razzismo su questo tema. No? C'è da dire anche una cosa. Una cosa c'è da dire su questo, Ivano. Che i primi 10 giorni, e su questo gli stessi cinesi lo riconoscono, c'è stato un po' del silenzio da parte dei cinesi per tacere la vicenda. Io adesso non ricordo all'epoca se fu, come dire, avvisata tutta l'Organizzazione Mondiale della Sanità subito. Qui in Cina i primi 10 giorni hanno cercato un po' di tenere sotto traccia la questione. Questo non ha aiutato. Considero sempre il bicchiere mezzo pieno e dico che hanno veramente tantissimo migliorato. Ma al di là di questo, io me lo ricordo benissimo, non ho memoria della SARS, ho memoria della suina, e mi ricordo benissimo che nessuno si sognava di discriminare gli americani. Insomma, stiamo parlando di 6.000 morti, siamo a 20 volte tanto. Stiamo parlando di tutto il mondo colpito, l'Australia, io in quel periodo dovevo andare in vacanza in Australia, ma c'erano i giornali che portavano quotidianamente il bollettino. Sa cosa è successo nel frattempo? Che il ruolo dei social si è moltiplicato da allora, e quindi anche per questo se ne parla molto di più e si è diffusa anche più paura. Sì, anche, però effettivamente, ci dice Ivano, un atteggiamento del come dire, vedi un cinese, una persona dai profili asiatici e stai alla larga. E beh, dai, voglio dire, è una forma in qualche modo di paura e di razzismo. E guarda qua che è arrivato un messaggio di una bellissima ascoltatrice con una bellissima cinese. Stanno tutte e due un passo indietro. No, adesso ovviamente sto facendo la parodia scema di Amadeus. Un'ascoltatrice ci ha mandato la foto abbracciata a una cinese dicendo: eccoci qua, brava, brava cara ascoltatrice, vedi? Tanto è facile trovare un cinese, no? Andiamo per luoghi comuni, sì, basta scendere, insomma, prima o poi un cinese lo si trova, sono talmente tanti, no? Ma proseguiamo così con i luoghi comuni. E... io andrò dalla mia amica Stefania, che ha un bar in via Pacini, e la abbraccerò. Vabbè, anche se il padre non vuole. Il padre non è favorevole, però cercherò di convincere il padre di Abbraccia Stefania. Il padre di Stefania, anche lui è cinese? Sì, sì. Abbraccia lui, che problema c'è? Abbiamo detto abbraccia un cinese, non abbiamo detto che devi abbracciare Stefania, virgola, cinese. Traffico. Cerchi un gestionale in cloud? Scarica l'app da fluentis.com e prova gratis per 30 giorni. Vi presenta... Uno, nessuno, 100 Milan. Uè Leo, te l'aura sabato sera, eh? Pena andrun. Milan, non sai quali sono i poteri forti? Mauro Meazza, semplice. Oh, vedi, in questo caso se uno dà un nome e un cognome preciso, e nello specifico Mauro Meazza, io capisco subito i poteri forti. Guarda qua che bello, la mia famiglia che abbraccia una cinese. Arrivano le foto, arrivano le foto degli ascoltatori, c'è arrivata anche una su Facebook, guarda, una ascoltatrice che si fa dare un bacino sulla guancia da un cinese. E bravi, bravi, cari ascoltatori. Dai. Allora, il coronavirus, che di questi tempi si è riversato come un ciclone sulle nostre vite, in fondo, pur con tutti i problemi che comporta, in fondo ha anche qualcosa di buono. Posto che, quando mi guardo intorno, adesso ho l'impressione che la mia città sia popolata solo da cinesi, che adesso vedo dappertutto, mentre prima quasi non li notavo, ecco, questa massiccia presenza di cinesi, di cui adesso mi rendo conto, mi pone ogni volta di fronte a un bivio. Il bivio è quello che quotidianamente compare nel mio cervello. Da un lato la parte più emozionale, quella più istintiva, che appena vede un cinese in modo immotivato suggerirebbe di cambiare strada, di cambiare marciapiede, di cambiare bar, di cambiare negozi, di cambiare tutto. E in questo l'aspetto fisico dei cinesi non aiuta. Sì, perché noi pensiamo subito di riconoscere un cinese appena lo vediamo. In verità probabilmente noi riconosciamo i tratti di un asiatico, ma che quell'asiatico sia necessariamente un cinese non è detto, anzi non è per nulla certo. Invece per noi adesso, in questa sorta di psicosi collettiva, per noi tutti gli asiatici sono cinesi e quindi potenzialmente untori. Tutta l'Asia per noi adesso è diventata la Cina, dalla parte più a est della Russia fino all'estremo ovest del Giappone. Tutti cinesi, tutti untori. Come se, paragonando la questione all'Europa, gli italiani fossero uguali agli svizzeri, agli svizzeri ai francesi e così via. Per noi adesso a est di Mosca sono tutti cinesi. E il bivio che si manifesta nel cervello cosa dice? Da una parte l'emozione, l'istinto ci suggerirebbe di scappare, darsi la gamba per non aver niente a che fare, nemmeno fisiognomicamente, con la polmonite virale del coronavirus. Ma poi c'è l'altra strada del bivio cerebrale, che è la strada più razionale, che ci dice che è stupido generalizzare, che è stupido evitare tutti quelli che hanno tratti asiatici, che se abbiamo mangiato gli involtini primavera fino a ieri, verosimilmente possiamo continuare a mangiarli anche oggi senza rischiare il coronavirus, ma al massimo qualche sofferenza al fegato. E noi possiamo decidere che strada scegliere nel nostro bivio cerebrale. Da una parte c'è quella un po' sconnessa, fangosa, ma più breve del sentiero emozionale. Dall'altra c'è quella più lunga ma ben asfaltata della strada razionale. Eppure quanti di noi comunque hanno la tentazione di scegliere la strada più breve, sebbene fangosa, rispetto a quella asfaltata ma enormemente più lunga della strada razionale? Ieri mattina, come faccio di consueto, dopo una prima colazione a casa mia con un caffè fatto in casa, leggero, sono uscito per bere un vero caffè al bar. Ma di domenica il bar Jimmy, dove vado normalmente, è chiuso. Mi si è palesato di fronte un bar gestito da alcune persone sicuramente asiatiche, non so se proprio cinesi, ma sicuramente asiatiche. La mia parte emotiva le ha immediatamente identificate come cinesi, un cortocircuito mentale me l'ha fatto immaginare come appena rientrate da Wuhan, la città del contagio. E guardandoli negli occhi ho immaginato i sintomi, sebbene ancora latenti, del coronavirus. E di colpo mi sono visto ricoverato all'istituto Spallanzani, in isolamento assoluto. Sono rimasto lì, fuori dal bar, per un attimo, dove comincia il bivio cerebrale. E poi ho scelto la strada asfaltata, quella più lunga, razionale, e sono entrato e ho chiesto un caffè. Caffè terribile, per la verità. Però l'ho bevuto senza pensare al coronavirus e al possibile, anzi impossibile, contagio. E sono uscito più contento di me, soprattutto. Io ho pensato, sono un uomo razionale, un vero uomo del XXI secolo. Così si fa così. Ho avuto solo un piccolo sospetto, quando poi, rientrando a casa dai miei bronchi, è sgorgato un piccolo impercettibile colpo di tosse. Ma sono sicuro sarà la suggestione. Guarda qua che arrivano le foto, guarda, arriva da un bar, come il bar Jimmy, il bar Mani o Meni, non lo so, gestito a Brescia da cinesi. Guarda che belle foto che ci arrivano, con degli italiani, con i titolari cinesi. Poi un altro ascoltatore ci ha mandato la foto con un cinese, con quella foto di Wuhan, oh, con un bel, credo, violoncello in mano. c'è anche una foto di, del nostro scrittore preferito Mauro Corona, il coronavirus, ci hanno mandato anche quella. Beh, vedete che arrivano le foto di abbraccia un cinese, va bene, anche se è coreano, dai, vabbè, fai finta, sei cinese. Sì, sì, va bene, sei cinese, basta che abbia un po' gli occhi a mandorla. Eccolo lì, generalizziamo, bene. Luoghi comuni, via. Mi sembra che anche Iva Zanicchi sia una persona che ha sposato molto questa causa dell'abbraccio a un cinese. Ieri era, non so se da Barbara D'Urso, dov'è che era ieri? Vabbè, Iva Zanicchi dalla TV. No, un po' di preoccupazione. No. Guarda, ti dirò che ieri arrivando in treno, sì, sono arrivata alla stazione, ho sentito delle urla tremende. Dico, oddio, qui si è fatto male qualcuno. Allora, una scena incredibile. C'era una signora cinese che è scesa dal treno e tutti gli inservienti dicevano, si fermi, ma e la tenevano lontano con le mani, stia lì ferma. E questa che urlava, poveraccia, che magari non c'entrava nulla. Ma adesso c'è un po' la psicosi. Io quando vedo un cinese sorrido, ma me la do a gambe. No, ragazzi, oh, che devo dire? Tamara Veniere, capito? Sorrido, ma me la do a gambe. E quello è il bivio cerebrale che dobbiamo imboccare e scegliere. Allora, signori, che ne pensate di questa insegnante di Firenze? No, ne parleremo nella seconda ora. Seconda ora parleremo con uno storico, Andrea Giardina, e parleremo con Maria Bigliani, che è la figlia di una staffetta partigiana ebrea che si è ritrovata sul muro di casa la scritta crepa sporca ebrea proprio qualche giorno fa, in coincidenza con la giornata della memoria. Allora, che ne pensate, che ne pensi tu, Leonardo, di questa insegnante di Firenze che ha detto ai suoi allievi cerca notorietà la Segre, non fatevi ingannare, io non la sopporto, perché la dirigente scolastica ha detto non si presenti più a insegnare già da lunedì mattina, cioè da oggi. Ma che la Segre cerchi notorietà mi sembra proprio una stupidaggine, cioè. Ma sì, cioè, voglio dire, tra l'altro ricordiamo che Liana Segre da decenni, 20 anni credo che va in giro per le scuole, prima di diventare senatrice a vita, prima di tutte queste polemiche, non ha mai cercato notorietà, ha semplicemente cercato di portare avanti la memoria storica di quello che è successo a lei, perché la gente sappia e perché non ci si dimentichi. Ma che ne pensi del fatto che la dirigente abbia cacciato seduta stante dopo queste dichiarazioni questa insegnante? Secondo me è una cosa grave quello che ha detto questa insegnante, perché insomma uno degli eventi tragici del XX secolo non lo si può poi liquidare così dicendo che c'è una persona che cerca notorietà. Quindi io sono d'accordo col provvedimento. Non so se si sia presentata questa mattina in classe, però di questo e dell'importanza della memoria e della storia parleremo tra poco dopo il giornale radio. Il segnale orario vi è offerto da... È ora di riscoprire il fuoco. Progetto Fuoco, 19-22 febbraio, Verona Fiere. Uno, nessuno, 100 Milan. Standing on the corner, suitcase in my hand, Jackson's corset, Jane is in her vest, and me, I'm in a rock and roll band. Io ieri non ho abbracciato alcun cinese, ma con la mia compagna sono andato a mangiare al classico ristorante All You Can Eat, sushi giapponese e cinese. Sì, sì, abbracciate pure i cinesi, basta che non abbracciate Manera, che si è sentito che c'è ancora la tosse, Ma Manera un bel po' che non abbraccia una donna, per quello che voleva abbracciare un cinese. Dai, braccia un cinese maschio, non una donna. Sono illazioni. Perché questa signora deve dire che è un bel po' che non abbraccia una donna? Sarà un paio d'anni. Guarda che bello, guarda, ci è arrivata la foto di un nostro ascoltatore. Descrivila tu questa foto, che ci è arrivata via Facebook. C'è un nostro ascoltatore, immagino, che non è che abbraccia due cinesi, no, una è a fianco e una, cioè più che l'abbraccia proprio. Ma secondo me sono in procinto di avere un rapporto completo, plurimo. Sono in tre e dalla e dal viso, in un bar, soprattutto credo in un bar, delle due signorine, penso che siano ben disposte per avere questo rapporto blu. E anche dalla sua. Li raggiungo cioè, facendo una cosa in quattro. Si vedeva che non aspettava altro. C'è una trasmissione radiofonica che ha detto che devo abbracciare. Vieni qua. E abbraccia questa cinese in maniera voluttuosa. Si può dire voluttuosa. Voluttuosa e con anche un'altra dietro che insomma, sembra veramente una bella situazione. Precoito. Vabbè, se favoriamo precoitale. In qualche modo l'amore, se favoriamo l'amore. In qualche no, modo. No, non è questione d'amore, è proprio così, sesso e basta. L'amore non c'entra, mi sembra, in quella foto. Capito? Carnale. Non possiamo saperlo. Guarda qua, ci arriva un messaggio invece della classica locandina del giornale di Vicenza. Credo di ieri, ce la manda un ascoltatore. Titolo a tutta pagina: psicosi al San Bortolo, che è un ospedale. Psicosi al San Bortolo, c'è un cinese e tutti scappano. Cioè, ma voi vi rendete conto, cari ascoltatori? Cioè, uno mi ha scritto: ma è precauzione. Ma cosa vuol dire precauzione? Allora non devi abbracciare neanche, come dire, un belga, neanche un. È vero che il virus è nato dalla Cina, ma non è che. Tutti i cinesi sono portatori. Il problema è quello che dicevo prima, che sono fisionomicamente riconoscibili. Un cinese che sta qua a Milano, è un cinese che sta a Milano, che è come un belga che sta a Milano, che è come un italiano che sta a Milano. Vado a spiegare. Infatti, che dobbiamo fare? Stiamo cercando di spiegarlo. Abbraccia un cinese. Fabio da Roma, abbraccia un cinese, dai, buongiorno. Ciao, buongiorno Milan, complimenti per la trasmissione, vi seguo sempre. Grazie, dice che hai abbracciato un cinese, anche se è finto, dai, è il messaggio quello che conta, sì, lo storytelling. Ritengo che sia una stupida psicosi, insomma, questa cinese in Italia, perché chiaramente non c'è nessun pericolo, insomma. Vabbè. Però credo che Fabio abbia chiamato per la vicenda della professoressa della Segre, adesso ne parliamo, della storia. Che dici? Ma niente, io penso che il provvedimento sia assolutamente giusto, però secondo me, io che stimo tantissimo la Segre, vorrei che lei ricordasse anche tutti gli olocausti nel mondo, alcuni anche molto gravi successi nel Novecento, che purtroppo secondo me non vengono ricordati adeguatamente, come che esistessero morti di serie A e morti di serie B, morti poi per lo stesso motivo, cioè no, per dittature sanguinarie. Io credo che, adesso non voglio interpretare il messaggio della Segre, non credo assolutamente che lei voglia dire ci sono morti di serie A e di serie B, lei fa semplicemente da anni, è testimone di ciò che ha vissuto lei in prima persona e le persone come lei. E quindi lei racconta semplicemente la sua storia. Ma lo dice lei, tra l'altro, che è un'esperienza sua di cui lei porta testimonianza. Non è che per questo, cioè, se non racconta le storie gli altri, è bene che raccontino le storie, non so, il genocidio degli armeni, per esempio, no? Che raccontino, e lo fanno. Cioè, se no diventa poi il filo sottile, Fabio rischia di diventare appunto la colpa. Ah, vuole pubblicità, come ha detto questa insegnante di Firenze. No, vuole tramandare la memoria, il senso della memoria, l'importanza della storia, dei fatti, di quello che è accaduto. Non lo so, cioè, io ti dico questo, per me è importante ricordare la memoria, è essenziale, anche perché è assurdo appunto che persone oggigiorno ritengono che non sia esistita la Shoah, però secondo me vanno ricordati anche gli altri, perché la storia ci insegna che non è che non deve venire un altro Hitler, non dovrebbe venire neanche un altro Stalin, ma certo, un altro Mao, eccetera. Ma certo, vanno ricordati anche gli altri, ma non è il compito di Liliana Segre, voglio dire, che può raccontare ciò che ha subito lei. Ecco, quelli che hanno subito le persecuzioni dei gulag, ci sono libri, ci sono, portino giustamente avanti la battaglia contro i gulag. Questo voglio dire. Ecco. Sì, questo penso sia un settore in cui dire lo fanno anche gli altri non ha molto senso. Comunque, insomma. Fabio, grazie. Sentiamo Franco D'Alessandria, adesso ne parliamo, ripeto. Pronto? Sì, prego Franco. Buongiorno, io sono perfettamente d'accordo con l'ascoltatore di prima, però aggiungo una cosa, che c'è stato qualche giorno fa il giorno della memoria, ma il giorno dopo è ricominciato il giorno della memoria, abbiamo 365 giorni della memoria, quest'anno bisestile 366. Bene, io ne vorrei 367 se possibile. Ma alla fine guardi che ha il messaggio cala di intensità. E si ottiene l'effetto opposto. Abbiamo visto coi partiti, con la storia dei partigiani per decenni, erano tutti bravi, erano tutti belli di qua di là, poi viene fuori Pansa con i suoi libri che a me non sono piaciuti. Scusi, mi faccia capire, se ottiene l'effetto opposto cosa vuol dire? Che le sta sulle che le sta sulle balle, la gente si stufa, Allora facciamo lunedì le vittime del Vajon, martedì Piazza Fontana, tutte le settimane Piazza Fontana, ma Piazza della Loggia, l'Italicus. Si stufa ricominciamo da capo, Si stufa perché? Perché il mondo c'è mille problemi e non è che se me lo dici tutti i giorni che c'è stata la Shoah me ne dimentico, Guardi, quindi lei cosa suggerisce? A detta dell'Eurispes evidentemente c'è molto molto bisogno di ricordarlo, ma anche quelli visto che... non solo negazionisti, ecco che il problema che verrà della gente che diceva che potrà dire che Hitler non ha finito l'opera, quello è il problema. Sì. Certo. E quindi che cosa bisogna si fa? Fare? Bisogna allora la Segre giustamente può andare in giro tutti i giorni, i telegiornali tutte le sere, magari farlo in certe occasioni. Guardi, basta. Va bene, adesso comunque ne parliamo tra poco dopo il traffico con due ospiti e anche con questo approccio evidentemente. Leonardo, raccogliamo queste due provocazioni degli ascoltatori e le chiederemo ai nostri due ospiti. Non sembra che se ne parli tutto l'anno, che se ne parli sempre, sinceramente. E poi se c'è un insegnante di Firenze che dice la Segre ha stufato, cerca pubblicità, cioè capite che la notizia non è che è la Segre che va in giro, ma è che un insegnante che dice una bestialità del genere diventa notizia. È lei che fa parlare allora della questione della memoria. Se se ne stesse zitta, nel senso, se non dicesse una castroneria del genere, non ci se ne dovrebbe occupare. Siccome invece dice una roba del genere, allora ce ne occupiamo. Guarda qua che bella foto che arriva, una festicciola organizzata a casa mia, dice un ascoltatore, ascoltatrice. Descrivi questa bella foto, c'è una mamma italiana. Ci sono dei bambini che sembrano di origine asiatica, anche una italiana. Vabbè, mi sembra dai, cinesi, non è no, non si capisce. E poi c'è questa bella signora, bellissima, è molto carina, sì, bellissima, sì. Il numero... la proporrei per Sanremo. Che tiene in braccio un bambino cinese, inequivocabilmente mi sembra cinese. Bello, abbraccia un cinese, lei ha abbracciato anche con i bambini, guarda la bambina italiana che cosa fa, il gesto degli occhi a mandorla per solidarietà con i cinesi. Bravi cari ascoltatori, abbracciate i cinesi. Ora andiamo al traffico. 1, nessuno, 100 Milan. Allora, 10-18 minuti. Le provocazioni anche degli ascoltatori, adesso non ricordo, si chiama Fabio, credo da Roma, e Franco, un altro ascoltatore. Provocazioni che vogliamo girare al professore Andrea Giardina, che è uno storico molto noto, conosciuto, è vice direttore della Scuola Normale di Pisa. Professor Giardina, buongiorno. Buongiorno. Allora, poco fa due ascoltatori ci hanno detto, in sostanza, riassumo molto brutalmente, Fabio da Roma ci ha detto va bene, sì, parliamo della Shoah, però vorrei che Liliana Segre ci raccontasse anche le altre tragedie, gli altri olocausti, le altre tragedie, le altre persecuzioni. E un altro ascoltatore, Franco, addirittura ci ha detto però insomma anche basta tutti i giorni, sembra che ogni giorno sia il giorno della memoria, anche basta sentirsi sempre dire questa cosa della Shoah. Allora, professor Giardina, lei che porta avanti l'importanza invece della storia, che cosa può rispondere a questi due ascoltatori? Guardi, il primo ascoltatore usa il solito argomento retorico dello spostamento, cioè di fronte a un problema maggiore, cioè non è che non parli anche di questo, di quell'altro, non si finisce mai di spostare l'oggetto. intanto parliamo di quello di cui intendiamo parlare, e poi se qualcuno vuole parlare di genocidio armeno lo può fare, anzi lo deve fare, e di tanti, oppure di quello che è accaduto in Cambogia. Insomma, non è questo il modo di ragionare, non è questo il modo di, devo dire, a mio avviso, di ragionare collettivamente in termini di giustizia e in termini democratici. Non è questo il modo di dialogare. L'altro argomento è più serio, sì, perché non c'è dubbio che la memoria è indispensabile alla storia. Senza la memoria non c'è storia, ma è anche vero che una memoria senza conoscenza è sterile e può diventare controproducente. Mm-hmm. La retorica della memoria, l'inflazione della memoria. Questo è un argomento serio che tutti dobbiamo prendere in considerazione. L'inflazione della memoria. Perché poi sì, si arriva, professor Giardina, al caso di quell'insegnante di Firenze che ha detto la Segre mi è antipatica e chiede e vuole solo pubblicità. E il preside ha detto non si presenti più a scuola a partire da oggi, questo insegnante. Che ne pensa? Cioè questa come dire, licenziamento de facto di... Ma guarda, questi sono problemi che riguardano l'organizzazione della scuola, le normative. Chiaramente di fronte a una dichiarazione del genere io credo che la persona normale possa provare solo repulsione. Poi i provvedimenti disciplinari, insomma, li lasciamo a chi li deve, diciamo, la responsabilità di prenderli in considerazione se ci sono gli estremi. Però anche quello è un argomento, diciamo, tipico di chi dice io sono d'accordo magari, no, sul fatto che è una brutta cosa sterminare milioni di ebrei, gettare i bambini vivi nei forni e altre cose di questo genere. Però quella che ne parla è un esibizionista. Mm. Questo è un argomento non nuovo, anche questo è tipico delle azioni che hanno avuto i testimoni della Shoah nel dopoguerra, la diffidenza, certo, il fastidio che hanno suscitato, lo sappiamo tutti. Tanto che molti per anni sono stati in silenzio, anche forse non ce la facevano. Un po' perché avevano un habitat intorno non favorevole, un po' perché avevano il senso di colpa di essere sopravvissuti, un po' per altri motivi ancora, però l'argomento è quello, si delegittima, si assume una posizione, diciamo, io pure avevo mio nonno che è stato deportato, ma lui stava in silenzio, quindi se lei, quella signora parla, è perché è un esibizionista, perché vuole mettere a frutto con la notorietà i drammi propri della propria famiglia. Questo è un modo tipico, anche questo, di essere razzisti e antisemiti. Però lei diceva che può essere controproducente a volte la celebrazione della memoria senza conoscenza. In che senso? Questo diciamo perché parlavamo prima dell'inflazione delle giornate memoriali, quel signore che non ho sentito che diceva sì, tutti i giorni la memoria. Allora è chiaro che chi invita tutti i giorni a riflettere, a non smarire la memoria, lo fa un'operazione, diciamo, buona, insomma, di giustizia. Però ha scritto molto bene Walter Barberis in un libro bellissimo, Storia senza perdono, gli scrive una frase che mi ha molto colpito, che dice ma in fondo l'eccesso di memoria è talvolta la banalizzazione della memoria è talvolta peggio del cattivo uso della storia. Che è una frase terribile se ci pensiamo. Ricordo Barberis ha pure dati in connessione con la serie televisiva come il successo mondiale Olocausto, sì, c'è stata una recrudescenza degli atti di antisemitismo. Perché? Perché prima c'è l'emozione di fronte al filmato, al film, alla narrazione filmica. E poi subentra la sua fazione in qualche modo. Poi subentra la ripulsa e poi subentra la sua fazione. Quando diventa industriale, quando la memoria diventa industria, diventa comunicazione di massa, diventa spettacolo, a quel punto tutto è possibile. Certo. I bambini che saltellano, che è stato scalpore l'anno scorso, che giocavano sul binario della morte davanti ad Auschwitz, che hanno suscitato uno scandalo sì, universale, per i bambini, sicuramente i ragazzini non sono malvagi, quelli immagino che pensino di essere in uno spettacolo, di essere in un macabro parco divertimento. È per questo che vanno anche preparati, e l'importanza della conoscenza storica, come dice lei. Però, professor Giardina, io voglio presentarle Maria Bigliani, che la stava ascoltando. Sì. Maria, buongiorno. Buongiorno. Che è la figlia di Ines Ghiron, staffetta partigiana ebrea. E lei, Maria, si è trovata sul muro dell'androne di casa a Torino il 27 gennaio, la giornata della memoria, la scritta "Crepa sporca ebrea". Perché ha deciso di lasciare quella scritta, di non farla cancellare? Dunque, l'ho lasciata per alcuni giorni e devo confessare che l'ho ripulita. Ieri, per cui adesso non c'è più. Ecco. Sì, è vero. Ah, no, perché però, ce lo spieghi, aveva detto inizialmente la lascerò in qualche modo. Sì, ho detto la lascerò per un po' di tempo, ho precisato, però sì. In effetti l'ho lasciata finché è stata simbolo di una testimonianza, di un atto, di una scritta razzista. Poi, insomma, come diceva giustamente il professore prima di me, tutto poi diventa inflazionato e insomma prende un'altra piega ed diventa antipatico, per cui è giusto rimarcare la questione, perché assolutamente il razzismo, le scritte così devono essere sottolineate, e soprattutto, d'accordo col professore, la conoscenza e la della storia passata, che assolutamente non si deve dimenticare, ma ho paura che l'inflazione di questa questione poi arrivi a stancare. Cui l'ho cancellata. Però questo non toglie il fatto che la scritta c'era. Certo, esatto, il fatto in sé, come dire, nel 2020 si è prodotto. Certo. Lo chiedo a lei e poi lo chiedo allo storico Giardina: che effetto le fa sentire che, secondo l'Eurispes, un italiano su 7 crede che sia propaganda la Shoah? Ma lo stesso discorso che si faceva prima, e cioè della esagerazione dell'informazione, che poi si trasforma in inflazione mediatica. Questo ovviamente che impressione mi ha fatto nel 2020 vedere una scritta così, fra l'altro di stampo vecchio, perché sporca ebrea mi sembra che lo dicessero i nazisti. Allo stesso tempo ridicola, cattiva e ignorante, per cui è giusto denunciare quello che ho fatto dopo tanti dubbi, perché alcuni mi avevano detto di non farlo, di lasciar perdere. Invece io mi sono sentita di denunciare e anche di raccontare ai mass media che cosa è successo. Sì, secondo me su questo ha fatto bene. Professor Giardina, il 15,6% degli italiani che non crede all'Olocausto è un dato di ignoranza o c'è qualcosa? Ma guardi, di più? È difficile. Io innanzitutto voglio ringraziare la signora e dire tutta la mia ammirazione e l'onore di parlare con lei per questo suo gesto di coraggio, e anche per aver pensato di poter lasciare quella scritta, che è un segno di anche solo qualche giorno, anche sì, solo che per qualcuno... solo per aver pensato di farlo merita la nostra gratitudine. 15,6 è un dato enorme, perché sì, se sentiamo 15,6 ai più, poi vabbè, 15,6, però resta l'85% che ragiona diversamente, ma 15,6%, io non sono bravo in matematica, ma sono 9 milioni di italiani, sì. Che vuol dire più della popolazione di Milano, Roma e Napoli messe insieme. Questi dati sono attendibili non solo perché vengono dall'Eurispes, ma perché sono confermati dal CIDEC, dal Centro della Documentazione Ebraica, che ha un suo osservatore sull'antisemitismo, e sono confermati da osservatori internazionali che lavorano su campioni appunto internazionali con tecnologie raffinate, come c'era tecniche di sondaggio raffinate, come c'era l'Eurispes. Allora questo è un dato che gli fa tornare il problema della conoscenza. Ma pensiamo davvero a queste persone che negano che la Shoah sia esistita, non abbiano mai visto un filmato, non abbiano mai sentito un professore che gli ha raccontato la Shoah, non hanno partecipato alla giornata della memoria, per tornare a quello che dicevamo prima anche con la signora? Certamente. Allora io me ne do una spiegazione, ma non sono probabilmente la persona adatta a parlare di psicologia sociale o di comportamenti politici che richiederebbero veramente analisi molto più raffinate. Io penso che un dato così spaventoso, cioè 9 milioni di italiani che negano un fatto storico iperconclamato, mi fa pensare che non siano tutti antisemiti accaniti, odiatori di ebrei, gran parte, buona parte sì, ma probabilmente quella è un'espressione di insofferenza antisistema. Qual è il racconto pubblico che propone il sistema? E io vado contro. Una brutta cosa, che sono state fatte le cose orribili. Chi lo dice? Lo diranno i partiti di governo, lo diranno i soliti. C'è una forma di protesta. I poteri forti. Altrimenti non mi spiego. Quindi è una macchina dell'odio, ma non è un odio direttamente indirizzato. No, è chiaro. Verso il sistema. È un odio di rimbalzo. Sì, è ancora più grave. Tra l'altro, vorrei chiedere anche alla signora Maria Bigliani se ha sentito di questa vicenda di Firenze, di questa insegnante che è stata invitata a non presentarsi. Secondo lei è un provvedimento troppo severo o è giusto? Dunque, secondo me la professoressa ha equivocato la esagerazione mediatica di quello che ha detto la Segre, che appare dappertutto effettivamente, con quello che è la signora Segre e con quello che ha vissuto. Cioè non si può confondere la persona con l'esagerazione mediatica, perché ne viene meno della sua importanza. Allora, la professoressa di per sé ha detto quello che pensava, siamo in democrazia, per carità, però ha detto una sciocchezza. Secondo me è esagerata sospenderla effettivamente, ma la questione è stata equivocata. Sì, anche perché poi, come ho detto io, gran parte degli articoli su Liliana Segre degli ultimi mesi sono, come dire, articoli che non è che ha cercato Liliana Segre, ma sono state, risposte. È un po' quello che è successo a me, che mi sono saltati addosso tutte i giornalisti. Ieri sera sono apparsa Che tempo che fa, cui anche quello, cioè anche io ho avuto le mie critiche. Certo, dopo accuseranno lei di essere visibile, ma lei dice, ma io faccio la mia vita normale, se non mi avessero scritto crepa sporca ebrea io avrei fatto la mia vita normale punto. Diciamo che una cosa lega l'altra e che io non mi sottraggo alle interviste, però questo è anche giusto, ed è anche giusto a un certo punto parlarne meno. Sarebbe bello parlarne meno, perché non ci sarebbe motivo per parlarne, perché non ci sarebbero quelli. Non abbiamo risposto alla domanda, però se c'è un'inflazione in questo senso, qual è poi la soluzione? Non credo non parlarne, oppure non dare spazio se uno scrive queste cose sui muri. Noi dobbiamo ringraziare il professor Andrea Giardina, storico. Non abbiamo parlato di questo tema, ma perché è uscita la notizia, ma non è ancora confermato, ma dovrebbe essere messo a capo della commissione per la didattica della storia voluta dal ministro d'istruzione Lucia Azzolina. Ci doveva essere però una formalizzazione, quando e se nel caso richiameremo il professor Giardina. Come ringraziamo Maria Bigliani, figlia di Ines Ghiron, staffetta partigiana. Eccoci. Allora, prima della borsa voglio solo dire una cosa agli italiani. Se vedete sulle bancarelle in giro per l'Italia un rimedio contro il coronavirus che si chiama Elisir del dottor Meazza, Meazza, sappiate che non è efficace. È un modo messo in giro da Mauro Meazza per lucrare anche su questo problema serio. L'elisir del dottor Meazza, che risolve tutti i problemi come una volta, non funziona contro il coronavirus. Bene, borsa. 1, nessuno, 100 Milan. Allora, la terra è piatta, e i terrapiattisti, Novax, i vaccini uccidono. E la Shoah non esiste. Avanti così. Allora, caro Leonardo Manera, sono le 10:39 minuti. Adesso voglio un po' tra il sorridere. Ricordi, a proposito del ministro Azzolina, visto che abbiamo citato la vicenda di un professore che ha detto che aveva studiato l'intro della sua tesina di laurea, dicendo che era copiata senza citazione. Allora adesso, e poi non era una tesina, era insomma un'altra era, cosa. Sì, non era la tesi, ma era una tesina per l'abilitazione alla scuola, per l'insegnamento, eccetera. Adesso è stata studiata un po' tutta questa tesina, chiamiamola tesina per semplice, e si è scoperto che il problema non è tanto forse il plagio, ma una serie di strafalcioni, errori ortografici, proprio errori grammaticali, tipo la svirgolata, l'utilizzo della virgola. Leggo oggi, ma Gianluca Veneziani ha scritto tutto un articolo su Libero, dice, ha letto questa tesina, la svirgolata, la virgola dopo il che, non so, è importante ricordare che virgola, gli uomini selvaggi, ma dipende di Rousseau, se è un inciso, cioè è importante ricordare che virgola, nonostante le consuetudini, virgola, scusa, questa frase, è importante ricordare che gli uomini selvaggi di cui parla Rousseau non sono quelli qui non ci sta la virgola. Se pertanto aveva queste garanzie, se pertanto virgola aveva queste, cioè ogni tanto, oppure ma le speranze di Voltaire verranno smentite, ma virgola le speranze di Voltaire, ci sono delle le virgole messe un po' così. Oppure, questa è un po' più grave, la non concordanza tra soggetto e verbo, il soggetto al singolare, poi però si introduce un elemento plurale e il verbo diventa il plurale. Esempi, anche qui bisogna vedere, perché se uno per esempio dice la gente condivide o la gente condividono, no, la violenza delle sue opinioni religiose preoccuparono i suoi protettori e amici. No, la violenza, il soggetto è la violenza. La violenza, appunto. Perché? Forse però, è la violenza talmente grande che diventa plurale. No, è delle sue opinioni. E quindi, ma non è il primo caso. Lo scambio di opinioni tra Rousseau e Voltaire rappresentano l'esempio. No, non è le opinioni che rappresenta, è lo scambio. E quindi rappresenta. Lo scambio rappresenta. La saggezza delle leggi sono rilevabili dalla permanenza delle leggi. È una scrittura creativa, ma vogliamo non vogliamo dare la possibilità di una scrittura creativa. Sì, ci sono anche i qual è e i qual era con l'apostrofo. Vabbè, almeno creativa. Però su questo sai che c'è tutto il dibattito. Senza apostrofo. Sì, ma è nato tutto un dibattito a un certo punto tra linguisti, secondo i quali alcuni hanno detto... Se tu ben ricordi, anche abbiamo avuto qui il presidente Accademia Crusca, ha detto che comunque non ci va l'apostrofo nel quale... E poi c'è questa frase, pensava che tra questi si ardisse una congiura, no? Ordisse. E poi... Voltaire riteneva che Rousseau non seppe sfruttare il talento, la congiuntivite mancante. Forse non è un problema di plagio, ma di sintassi. Questo almeno secondo... Vabbè, ma poi chi se ne frega? Possiamo andare un... No, non è un chi se ne frega. Lei è ministro dell'istruzione. All'istruzione. È per quello che c'è. Perché tutto. Nel senso che anche lei un po' si deve istruire, quindi è corretto. Eccola lì. No, poi chi è senza peccato sulla virgola scagli la prima pietra. D'altronde, se ceni e pranzi con Salvini a Vignola, poi dopo dai contro il Movimento 5 Stelle. Sei coerente in questa tua... Massimiliano dalla provincia di Milano. Io invece ho cenato con Farinetti sabato. Mi hanno detto che l'hai già detto nella prima parte più volte anche. Non so se perché tu ci tenga l'ho così. L'ho detto all'inizio perché diceva le sardine, le foto con i poteri forti Benettone. Ho detto, allora io ho fatto una foto. Ti vanti con Farinetti. Di essere stato a cena con Farinetti? Tantissimo, perché si mangia benissimo, si beve benissimo. Continua. Ed è molto intelligente e bravo. Lui e la sorella. L'amico dei poteri forti. Massimiliano, scusa. Buongiorno Milan, buongiorno Manera. A me basterebbe mangiare solo con voi due. Sarei già contento. Ecco. Ma guardi che Manera è terribile a cena. Cioè inizia, sposta il formaggio, togli il formaggio. Io volevo fare una cosa a base di formaggio. Per cui non me No, io volevo intervenire riguardo a questa cosa. Dai nostri figli di una classe, insomma, riguardo al giorno della memoria. Bisogna anche stare un po' attenti, secondo me, anche ai messaggi, come si lanciano. Mi spiego, io ho una figlia di 8 anni, hanno fatto vedere in classe, tra l'altro da soli, da quello che mi è stato spiegato, il film Jonas nella pancia della che vive nella balena, che è un film che parla appunto della Shoah, non leggerissimo, perché io l'ho guardato e effettivamente non è leggerissimo. E secondo me non è un film da far vedere da soli a dei bambini di 8 anni. E da questo insegnante di sostegno ho deciso di fare questa cosa qua. E tra l'altro alla fine del film ha chiesto ai bambini di disegnare la scena che più li ha colpiti, e anche qui senza dare prima né spiegazioni né dopo spiegare, sì, un po' il film e via discorrendo. No, insomma, è sbagliato, ci vuole una preparazione, giustamente. Stamattina ho visto un'altra bambina, sempre della classe, con in mano un libro di il diario di Anna Frank. Questa bambina di 8 anni ha detto: sto leggendo il libro, me l'ha consigliato la maestra, questa maestra qua. Allora io, sì, non voglio far polemiche, però dico, va bene il giorno della memoria, ricordare queste cose, assolutamente, io sono il primo a volerlo fare a mia figlia, però secondo me bisogna anche stare un po' attenti quando e come si lancia questo messaggio, certo, perché ci sono stati diversi bambini che poi, a me e a mia figlia, mi ha chiesto ad esempio, quindi io per la, non voglio dire il paese dove abito per evitare poi magari problemi alla scuola, sì, però mi ha chiesto se in giro per il nostro paese ci sono ancora ebrei. Non è, però voglio dire, no, no, è chiaro, è chiaro. Il messaggio è: bisogna, come dire, preparare. Però io, per dire, nel weekend, venerdì, sono andato con i figli a vedere un film, Jojo Rabbit, e devo dire, e ho scritto questo sui social, chiunque, secondo me, chiunque ha figli dovrebbe portarli a vedere Jojo Rabbit, che è un film. È iniziato un dibattito sui social, a dire, ma attenzione, però da che età è giusto, da che età? Io dico magari dai 10 anni, preparando, c'erano anche bambini più piccoli, ma, però è nata, non lo so, perché questa idea del proteggere i figli non facendo vedere loro le cose, è l'errore più clamoroso. Pensare di tenerli sotto, bisogna parlare, spiegare, sono molto più in grado di capire di noi adulti, se ovviamente vengono istruiti, vengono preparati. Parla per te. No, per me sicuramente, per te non voglio dire, cioè che quando io, scusa, quando chiamo a casa tua che ti dico, senti, passami Beniamino che devo spiegare una cosa a papà, no? Infatti spiego le cose a Beniamino perché le spieghi bene a te, insomma, questo si sa. Possiamo svelare. No, quindi l'idea di proteggere i bambini sotto la campana di vetro non riescono a capire. I bambini vanno protetti. Ah, ma c'è una scena di morte. I bambini sanno, se adeguatamente preparati, molto meglio degli adulti. E chi li prepara se gli adulti non sono in grado di capire? Dagli altri bambini. E allora lì il problema, ragazzi, state a casa e guardate. È una strada senza uscita. Guardatevi una partita di calcio. Bambini vanno preparati, ma gli adulti non sono in grado, quindi non se ne esce mai. Va bene, traffico. Abbandona le certezze e respira il cambiamento. Immagina nuovi mondi a partire dalle tue radici. Domina il presente e vivi il futuro, cominciando dalle tue unghie. Con il Tronchesino Calloni, mai più unghie fuori posto. Unghie sempre tagliate bene col Tronchesino Calloni. Tronchesino Calloni, vivi il futuro. Cerchi un gestionale in cloud? Scarica l'app da fluentis.com e prova gratis per 30 giorni. Vi presenta 1, nessuno, 100 Milan. Milan, giusto per curiosità, quanto hai speso da Farinetti? Dai, diccelo, che siamo tutti molto curiosi. Quanto hai speso? No, ero ospite da Farinetti, alla fondazione di Farinetti, quindi non ho pagato. Non ho vergogna a dirlo. Ero felicemente ospite. L'ho detto un po' troppo poco, dovremmo approfondire domani. Allora, è arrivato il nostro super sovranista, signor Garosio, buongiorno. Io non l'ho interrotta, buongiorno, mentre stava parlando lei, sì, lei non mi interrompa mentre sto parlando adesso. Io, altrimenti abbandono lo studio. Guardi che forse... Abbandono lo studio, lei non mi interrompa. Guardi che allora forse... Allora, Giampaolo Garosio, sì, detto Geppo, parola di Geppo. Io leggevo tanto Geppo da piccolo. Ecco, bravo, non mi interrompa, abbandono lo studio, sia gentile. Okay. Allora, perché ho fondato il partito super sovranista italiano? Per quale motivo? Sono fuoriuscito dalla Lega, non mi riconoscono nelle posizioni di Matteo Salvini, che è troppo moderato. L'abbiamo visto anche nel recente episodio del citofono. sì, cosa è successo? Che aceto fumato. Allora io dico, se tu presumi che dentro una casa ci siano spacciatori, sì, non vai a citofonare, no, fai direttamente una eruzione con le teste di cuoio, ammanetti il presunto spacciatore, cerchi la droga. Ma tu politico? E se non c'è, cosa fai? Gliela metti di nascosto nella zuccheriera. Questo è il modo di fare. Ma no, tu politico? Tu certo, tu politico. Altrimenti citofoni e lo spacciatore cosa fa? Butta la droga nel water. Non va bene così. Quindi ho fondato il PSSI, Partito Super Sovranista Italiano. Ricordiamo l'inno. L'inno. Pissi anche tu, pissi anche tu, vota pissi anche tu. Super Sovranista Italiano ti difende ogni giorno di più. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. La musichetta l'ha fatta, ha composto lei. Naturalmente. Allora, noi vogliamo rivitalizzare per prima cosa l'uso della lingua italiana, infatti, sì, ci autofinanziamo attraverso il dizionario super sovranista. Bene. Per esempio, basta le parole straniere, basta. Basta. Per esempio, basta. Kashmir non va bene. Il Kashmir è una regione del Pakistan dove ci sono anche molti terroristi. Sì. Allora sostituiamolo con Casimiro. Ho un bel maglione di Casimiro. Italiano, sì, lingua italiana. Anche altre parole in uso, per esempio, brainstorming. Sì. Sostituiamola con sparare cazzate. Sparare ci troviamo cazzate. Un'ora a sparare cazzate, altro che brainstorm, fan o fans, non so se è latino, inglese, quello che è. Fan, allora fan, sostituiamolo fan. Con maniaco, maniaco, perché tu non mi puoi dire che un fan, per esempio, di Junior Kelly è una persona normale. Beh. Allora, ah, maniaco, Sanremo, maniaco, sì. Veniamo adesso al vocabolario vero e proprio super sovranista. Veniamo. Mi dica una lettera qualsiasi che partiamo da quella. C. Allora, C. S come stazione. No, veramente stazione. Ho detto C. Io veramente non mi abbandono lo studio, non l'ho interrotta. Ho capito, però. Giornalista al servizio dei poteri forti, l'abbiamo sentito fino a poco fa. Sì. Da chi va a cena lei? Allora, stazione, sì, complesso degli edifici e degli impianti presso cui si svolgono le operazioni di arrivo e partenza di merci e passeggeri che utilizzano mezzi di trasporto pubblico. Bene. Poi da lì normalmente ci si avvia verso altre destinazioni, sì, tranne. Tranne? Gli extracomunitari, no, di colore nero, che spesso alle stazioni fissano la loro residenza, ciondolando avanti e indietro, bevendo alcolici, drogandosi e infastidendo giovani ragazze che invece avrebbero diritto di essere infastidite solo da ragazzi italiani. Cioè, questo è solo, solo da ragazzi. Sì, certo. Mi dica un'altra lettera che facciamo. Cioè, una. La lettera E. Allora, S di smartphone. Veramente ho detto apparecchio telefonico di ultima generazione portatile che oltre alle telefonate è in grado di svolgere altre funzioni. Ed è attualmente in dotazione, sì, anche a chi in teoria non se lo potrebbe permettere. Per esempio, gli extracomunitari, che non si sa come mai ne hanno sempre un modello di ultima generazione, anche se poi chiedono i soldi per mangiare. Allora io dico, amico extracomunitario negro di colore nero, a casa mia il telefono viene dopo. Prima si mangia, si beve acqua, amico extracomunitario, poi ci si trova una casa, sì, e alla fine si avanza qualche soldino, si mangia si prende il telefono, altrimenti in caso di necessità i messaggi si possono mandare anche col piccione viaggiatore, come facevo io fino a 10 anni fa, sì, va bene, piccione viaggiatore, piccione. Mi dico un'ultima lettera. S. A come amico. Amico. Termine abusato amico. Dagli extracomunitari amico. All'uscita dei supermercati. Ogni volta che un extracomunitario vede un cittadino italiano dice ciao amico oppure ciao capo. Anche se amico non è amico perché non ti conosco. Il solo intento è ottenere denaro. Quindi l'extracomunitario è un falso che finge l'amicizia solo per ottenere denaro. Non bisogna fidarsi. Stiamo partendo col piede sbagliato. Allora alcuni dicono, alcuni amici degli extracomunitari come te, diamo anche la residenza, no? Diamo la residenza. Non so se ne hanno diritto. Allora io dico, va bene, va bene, diamo la residenza, però devi conoscere alcune cose minime sull'Italia. Facciamo un piccolo test, delle domande. Per esempio, domanda per l'extracomunitario che vuole la residenza. Dove nasce il fiume Po? Quali sono bene. I suoi affluenti tutti? Sì. Quali sono tutte le specie animali che si possono trovare nel delta del Po? Perché casualmente il Po? Per dire, un'altra domanda, un'altra puoi, domanda. Puoi essere cittadino italiano, sì, certo. Conosci l'Italia? Vediamo. Quanti sono i membri del Consiglio Superiore della Magistratura? Come vengono scelti? Quali sono stati i presidenti del CSM dalla sua creazione ma oggi? Come si neanche chiama il palazzo dove la sede ma CSM? Lei lo sa. Dove lei si trova? Quali sono i mezzi pubblici per poterci arrivare? Ma lei lo sa. Queste sono le domande. Lei non mi abbandona lo studio. No, ho capito, giusto. Oppure per verificare. Vuoi diventare cittadino italiano? Allora dimmi chi fu Giuseppe Garibaldi. Quali sono tutti i luoghi dove dormì Giuseppe Garibaldi? Beh, adesso, quali sono i nomi di tutte le sue amanti? E quante statue dedicate a Garibaldi ci sono in tutta Italia, isole comprese? Ecco, amico extracomunitario, forse se conosci tutte queste risposte, sì, puoi ambire a diventare italiano. C'è un altro, pissi c'è... anche tu, pissi anche tu, vota pissi anche tu, super sovranista italiano, ti difendi ogni giorno di più. Ti giuro, io gli spaccherei la faccia con non questa musichetta. Non mi interrompa, non abbandono lo studio. La cosa più odiosa di tutto è questa maniera. Mentre stava parlando lei, che c'è un messaggio per lei, amico degli extracomunitari senza motivo, c'è una anche dei delinquenti, sì, dei malviventi, di quelli che spacciano droga, di quelli che danno fastidio alle ragazze italiane, di quelli che bevono alcolici. Noi siamo contro, a favore dei cittadini italiani. L'ascoltatrice dice che la chiamano mamma, mamma, e mi piace tantissimo. Sì, amico, mamma, capo, tutte cose finte di amicizia per spillarti denaro, per spillarti soldini. Vabbè. E non è una vera amicizia quella che si basa su spillarti i soldini. Vabbè, vabbè, la ringraziamo. Mi stanno sfumando molto i poteri forti dalla regia. No, mi sfumano, mi sfumano, mi sfumano, mi sfumano, mi sfumano. Vuole continuare? Abbiamo altri 20 secondi. Guardi, io il mio l'ho detto, lo so che questa è la radio di Confindustria che lucra anche sullo sfruttamento degli extracomunitari. Vabbè. Io invece mi adopero per il benessere dei cittadini italiani. Super male. Sovranista italiano, PSSI Pissi. Che questa cosa, PSSI Pissi è... PSSI Pissi? Se lei non è in grado di capirlo, mi dispiace per lei, è un problema che non mi riguarda. Sì. Adesso però scuoto la testa a chi non mi può vedere, mentre parla Mina, sappiate che scuoto la testa in segno di disapprovazione. Adesso guardi, è finito il tempo, non è che la stiamo sfumando. Continuate così, togliendo la parola agli amici che si occupano veramente del popolo italiano.